Focus Economia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms. I temi che toccheremo oggi. Innanzitutto parleremo di energia e di gas. Sono molte le notizie che si stanno affollando in questi giorni e in queste settimane. La prima è quella che riguarda il calo del prezzo del petrolio, che sta finalmente iniziando ad avere un impatto anche su quello che dobbiamo pagare quotidianamente, ossia il gasolio e la benzina. I ribassi sono ormai quasi quotidiani, almeno i ribassi dei prezzi consigliati da parte delle compagnie petrolifere, mentre ieri è arrivata la notizia che l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha deciso per l'abbassamento delle tariffe a partire dal 1 gennaio del 3% per l'elettricità e dello 0,3% per quanto riguarda il gas. In tutto questo ci sono anche delle questioni strategiche che si innestano in queste vicende. Naturalmente da una parte quello a cui già accennavamo ieri, gli scontri che avvengono in Libia, anche questi hanno un impatto naturalmente sul prezzo del greggio e anche su nostre tradizionali fonti di approvvigionamento. Dall'altra parte una notizia di ieri sera, ossia lo stop arrivato da Mosca al famoso gasdotto South Stream. Eni ha stipulato l'accordo per la cessione della sua quota di partecipazione del 20% nel progetto. Gazprom sta sostanzialmente ricomprando da tutti i soci le rispettive quote. Qua si aprono una serie di altre partite, di partite importanti, a partire da quella del gasdotto TAP, che come sapete dovrebbe approdare in Puglia con una forte opposizione da parte della regione e degli enti locali. C'è tutto un tema su cui ragionare anche in termini naturalmente di sicurezza energetica italiana ed europea, alla luce anche della crisi con la Russia in seguito alle vicende dell'Ucraina. E questo sarà il nostro tema di apertura. Ci occuperemo poi di mercati che oggi sono complessivamente negativi, negativa quantomeno Milano, che cede lo 0,24% sul FTSE MIB e lo 0,26% sul FTSE All Share, con le altre piazze finanziarie europee che però vanno decisamente peggio: meno 1,32% Parigi, meno 1,22% Francoforte, Londra meno 1,42% e Milano, che probabilmente beneficia anche dell'asta di oggi dei titoli di Stato, nella quale il tasso a 10 anni, il rendimento a 10 anni, ha toccato il minimo storico all'1,89%. Sarà l'occasione anche, visto che siamo alla fine dell'anno e domani ci sarà una puntata diversa, più fredda, dedicata tra l'altro alla Cina e firmata dal titolare della trasmissione, Sebastiano Barisoni, sarà anche l'occasione per fare un po' il punto dal lato del mercato dei nostri titoli di Stato, come è andato quest'anno, che sicuramente è stato un anno positivo. Ovviamente parleremo anche di come stanno andando le borse oggi e della giornata di oggi. Ci occuperemo delle novità che sono arrivate a fine anno tra il Jobs Act, quindi la riforma del mercato del lavoro e tutte le novità che ci sono contenute, ma anche molte novità fiscali in arrivo, inserite nella legge di stabilità, e anche un po' che cosa possiamo aspettarci per il 2015. Infine torneremo a toccare le vicende della Grecia, perché come sapete sono centrali in queste ore, non solamente per i mercati, ma anche se non per il destino dell'Europa, sicuramente sono significative, perché come vi abbiamo già ampiamente raccontato ieri, c'è un piano di salvataggio che evidentemente non è andato a buon fine, non ha funzionato, è stato realizzato male, lo abbiamo raccontato mille volte anche da questi microfoni. Ebbene, naturalmente adesso si addensano una serie di tensioni su tutto questo, in parte i mercati temono un'eventuale vittoria della sinistra di Tsipras, nonostante Syriza continui a ribadire che non ha alcuna intenzione di uscire dall'euro. Dall'altra parte, in un gioco sicuramente politico, perché questo va detto, Samaras dice che la posta in gioco è la permanenza del paese in Europa, questo il premier greco, e su questo tema torneremo verso la fine della trasmissione. Questi i temi che affronteremo oggi. 349-238-6666 come sempre per i vostri sms e le vostre domande. Iniziamo dalle notizie in breve. Allora, a chi chiede, poi ci torneremo su questo tema del Jobs Act, magari non ci riusciremo proprio oggi, ma insomma, lo faremo nei prossimi giorni, magari nella puntata del 2. Ci scrive un ascoltatore, dice: nessuno parla dei lavoratori attualmente con contratto a tempo indeterminato, se cambiano impiego rischiano di perdere molti diritti. Là naturalmente dipende da come si accordano con l'azienda, se questo cambio di impiego è dovuto a un licenziamento oppure no, evidentemente come si accordano con l'azienda nella quale vanno a lavorare. Comunque anche questo è un tema interessante, come è interessante, in parte l'abbiamo già toccato ieri, il tema della dicotomia che si viene a creare tra i lavoratori assunti con il vecchio regime e i lavoratori assunti con il nuovo regime. Come avete sentito, ieri abbiamo avuto ospite un professore della LUISS, che è anche un giuslavorista, che è una persona che si occupa di diritto del lavoro nella vita, nel senso e fa l'avvocato, che ci diceva probabilmente il governo ha inteso anche non creare un eccesso di tensione con questa riforma e quindi estendere immediatamente quel tipo di disciplina licenziamento, di possibilità di licenziamento senza reintegro anche ai contratti preesistenti, appunto avrebbe potuto generare delle tensioni. Questa è la sua opinione, naturalmente liberi di pensarla diversamente. Oro in rialzo in apertura oggi, iniziamo dalle materie prime come sempre, a 1189,76 dollari l'oncia, in salita dello 0,5%. E per quanto riguarda il prezzo del greggio, siamo in lieve risalita per quanto riguarda il WTI, con consegna a febbraio a 53,9 dollari al barile, un rialzo di mezzo punto percentuale, praticamente in pari per quanto riguarda il Brent, con consegna a febbraio a un più 0,07 a 57,9 dollari al barile, comunque sotto i 58 dollari al barile. A proposito di petrolio, ci sono da segnalare le parole di Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, che dice: l'OPEC non funziona. E sottolinea tra l'altro che l'andamento dei prezzi del petrolio non guiderà la politica monetaria americana. Altri fattori la determineranno, aggiunge. Ancora Greenspan dice che l'economia americana è ancora lenta. È interessante questa valutazione dopo i dati che abbiamo visto nei giorni scorsi dagli Stati Uniti, particolarmente positivi. La crescita nel quarto trimestre, dice Greenspan, sarà sotto il 3%. Dice che l'inflazione resta una preoccupazione. Intanto abbiamo dei dati che arrivano dagli Stati Uniti. La fiducia dei consumatori che sale ma sotto le attese, a 92,6 da 91 del mese precedente. E i prezzi delle case nelle grandi città che crescono del 4,5%, oltre le attese degli analisti, ma di poco, si attendevano un più 4,4%. Delle parole del Premier greco Antonis Samaras, abbiamo detto la posta in gioco nelle elezioni del 25 gennaio, dice, è la permanenza del paese in Europa, della Grecia in Europa. Questa battaglia va affrontata con responsabilità, aggiunge. Dall'altra parte, a testimonianza delle tensioni che continuano ad attraversare l'Europa, in questo caso da un fronte probabilmente un po' più prevedibile, che è quello di Londra, secondo Times, almeno 9 componenti del governo di David Cameron chiedono al primo ministro di poter fare una campagna in favore di un'uscita del Regno Unito dall'Europa, nel caso non vadano a buon fine i negoziati sul rimpatrio dei poteri da Bruxelles. Ricordiamo che in Gran Bretagna si vota a maggio e i conservatori vivono anche un po' con lo spettro dell'UKIP, il partito guidato da Farage, che viene accreditato in questo momento per un 15% dei consensi circa. Dall'altra parte il presidente del Consiglio Renzi, in visita in Albania, dice che o l'Europa si allarga o perde una grande occasione. Quando qualcuno mette in discussione l'ingresso dell'Albania e di altri paesi dei Balcani nell'Europa, sta sbagliando tutto, perché abbiamo bisogno che quest'area non sia solo parte, ma il cuore dell'Europa di fronte alle sfide che ci attendono. E ancora sull'Europa, una frase che abbiamo sentito spesso: mi piace pensare che questo 2014 possa essere l'inizio di un'Europa come casa della speranza e non solo di vincoli. L'asta di BTP, l'abbiamo detto, il tasso a 10 anni al minimo storico all'1,89%, i rendimenti scendono per la prima volta sotto il 2% al collocamento, ci arriveremo più avanti. Lo spread, la differenza di rendimento con i titoli di Stato tedeschi a 10 anni, arriva a 136 punti base. E poi abbiamo una serie di dati dall'Italia, li riassumiamo brevemente. Allora, la fiducia delle imprese è stabile a dicembre, migliora per quanto riguarda il manifatturiero e il commercio, va peggio nelle costruzioni e nei servizi. L'Istat parla di un meno 0,2% per l'occupazione nelle grandi imprese in ottobre e crescono le retribuzioni nelle grandi imprese dello 0,4% su anno e in calo invece dello 0,8% su mese. Confindustria intanto si attende un più 0,1% per la produzione industriale a dicembre e un calo di mezzo punto percentuale nel quarto trimestre del 2014. Ancora Unioncamere, che dice che le imprese iniziano a credere nella ripresa del 2015 e il sentiment, che sarebbe quello che percepiscono nel sistema produttivo, torna positivo. Dati di Unioncamere. Infine Confcommercio che dice con l'Atari, con l'arrivo dell'Atari, le tasse più pesanti per il terziario, saranno più pesanti per il terziario, un aumento medio del 2,7% con punte di un 6,2 per i distributori di benzina. Adriana Fracchi ha intervistato Pierpaolo Masciocchi, che è responsabile area ambiente di Confcommercio. Noi abbiamo potuto rilevare nel corso di uno studio che abbiamo condotto negli ultimi mesi dell'anno che gli aumenti tributari derivanti, diciamo, dalla TARI, dalla nuova tassa sui rifiuti urbani, si aggirano mediamente nel 2,3%. È un aumento non significativo se considerato singolarmente. Il punto è che questo aumento va ad aggiungersi ad aumenti estremamente più rilevanti che si sono registrati nel 2013, che sono nell'ordine del 230%. 30% mediamente, con delle punte che arrivano fino al 600%. Ecco, e quindi è chiaro che sul biennio l'impatto che è derivato dalla nuova tassazione sui rifiuti urbani per le categorie economiche in generale, in particolare per le categorie della distribuzione, del commercio, dei servizi, è rilevantissimo. Il punto è: qual è la causa di questi aumenti? Noi abbiamo potuto rilevare che tra le tante variabili e le tante condizioni che poi hanno determinato questi incrementi, la più rilevante è la variabilità dei piani economici e finanziari dei comuni. Nel senso che un comune è libero di determinare l'ammontare complessivo del costo del servizio. E noi abbiamo rilevato, andando ad analizzare quasi tutti i comuni capoluogo di provincia, che vi è una variabilità talmente rilevante che ovviamente poi va a giustificare questi aumenti. Io faccio degli esempi, ma ne potrei citare veramente numerosi. Il comune di Tortolì, ove si è registrato un costo del servizio pari a 291 euro pro capite, da una parte, il comune di Trento, dove si è registrato un costo del servizio di 148 euro. Quindi è chiaro che a questa variabilità estrema dei costi corrisponde un aumento e una variabilità estrema delle tariffe. Peraltro questi dati sono stati anche avvalorati dallo stesso Ministero delle Finanze, che ha pubblicato i costi standard di tutti i comuni. C'è modo di porre rimedio a questo? C'è una proposta vostra? Allora, la nostra proposta è assolutamente in linea con la direzione che ha assunto il governo in gli ultimi mesi, e cioè quello di rendere cogenti i principi dei costi standard. Il sito del Ministero delle Finanze ha pubblicato i costi standard cui tutti i comuni dovrebbero conformarsi nell'articolazione dei servizi locali. Il problema è che i costi standard sono non cogenti, sono indicazioni di principio. Se tutti i comuni si orientassero nell'ambito di un range ragionevole, intorno quindi ai costi standard, si avrebbe una riduzione significativa del tributo. E sempre là si torna ai costi standard. Vi consiglio un sito, tra l'altro, sul quale mi sto divertendo un po' in questi giorni, ci stiamo divertendo un po' in questi giorni a girare, ed è un sito del governo, si chiama soldipubblici.gov.it. Là, per esempio, potete andarvi a vedere, vi faccio un esempio casuale, quanto spendono dei singoli comuni, magari della stessa dimensione, che so, per esempio per le spese di telefonia. Potete ordinarli per dimensione, potete verificare effettivamente quanto spendono, quanto hanno speso nell'ultimo mese in tempo reale. Naturalmente ci sarà ancora qualcuno che questi dati non li fornisce, naturalmente. Però ne escono fuori cose parecchio interessanti. soldipubblici.gov.it. Questa è senza dubbio un'iniziativa meritoria, perché poi consente a tutti noi di verificare effettivamente quanto vanno a spendere le amministrazioni che abbiamo eletto, e poi in sede di urne decidere. Parliamo di energia adesso, dunque è un tema sul quale stiamo tornando spesso in questo periodo, ma necessariamente, ovvio. Ci sono tante questioni che hanno attraversato quest'anno da questo punto di vista. La prima, sicuramente in ordine cronologico, è stata la tensione che si è andata accrescendo con la Russia da parte dell'Europa. E il fatto, la necessità probabilmente di adottare una serie di nuove strategie energetiche per non essere eccessivamente o anche solo parzialmente dipendenti dalla Russia. L'altro punto, un'altra questione che ha a che fare e che coinvolge vicende geopolitiche e di gestione dei conflitti internazionali, è la questione del petrolio, naturalmente. Ormai siamo sotto i 55 dollari al barile per quanto riguarda il greggio quotato a New York, e adesso appena sopra, ma oggi eravamo scesi sotto i 58 dollari al barile per il Brent, quello quotato a Londra. Tutto questo lo ricordiamo in forza di fatto di una pura volontà dell'Arabia Saudita, che nonostante le resistenze di una serie di altri paesi che con questi prezzi del greggio non riescono a reggere, una serie di paesi esportatori, nell'ultima riunione dell'OPEC ha deciso che non ci sarà un taglio della produzione perché i prezzi li vuole tenere bassi. Chi voglia mettere fuori dal mercato, se appunto punti agli stessi russi, se punti a mettere fuori dal mercato gli americani con lo shale oil, questo è ancora tutto da chiarire. E poi ci sono gli impatti di tutto questo sulla nostra vita quotidiana, il calo dei prezzi alla pompa che non ci sembra mai abbastanza. E il calo delle bollette che ieri è arrivato. Infine le strategie delle nostre imprese. Si parla di Eni, si parla di South Stream. Ieri Eni ha ufficializzato l'uscita da South Stream, ha annunciato la cessione della sua quota a Gazprom, che si è offerta di riacquistarla da tutti dopo lo stop del progetto per il gasdotto che doveva di fatto aggirare l'Ucraina. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per parlare di tutto questo. Chissà se riusciremo a tenere insieme tutto, insomma probabilmente no, però insomma, intanto la saluto, buonasera. Buonasera, grazie. Inizierei dalla notizia più fresca, che è quella che è arrivata ieri sera, il fatto che Gazprom si sta sostanzialmente riacquistando le quote di South Stream. Lo stesso presidente del Consiglio Renzi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, a fronte del blocco arrivato da Mosca a questo progetto, aveva detto per noi non è strategico, stiamo pensando ad altro. Quali sono le vie di approvvigionamento italiane al momento, Tabarelli, e su cosa si punta? Immagino anche il TAP, la Trans Adriatic Pipeline. La Russia, nonostante che sia saltato questo gasdotto, questo grande progetto, rimane la Russia il nostro principale fornitore, tuttora in questo istante. In particolare i consumi sono soprattutto nella pianura padana, la gran parte del gas in questo momento arriva dalla Siberia, perciò tanto di cappello la Russia, che rimane il nostro primo fornitore con circa 25 miliardi di metri cubi all'anno l'anno scorso. Speriamo che non ci siano interruzioni anche quest'anno, perché comunque questo gas passa attraverso l'Ucraina, che è una zona di guerra. Poi gli altri principali fornitori sono il Mare del Nord, la Norvegia, anche l'Olanda, l'Algeria, che è secondo o primo, dipende dagli anni. Poi abbiamo la Libia, che la Libia è il paese dove c'è la più grande catastrofe dei paesi a basso reddito di questi anni, importanti perché esportano energia, petrolio e gas. Tra l'altro i prezzi, come ricordava lei, del petrolio stanno scendendo, ma nonostante che ci sia la Libia che in pieno caos abbia ridotto tantissimo la produzione di petrolio in queste ore, ma i flussi di gas continuano. E poi abbiamo un po', ahimè, poca produzione nazionale, nonostante che potrebbe essere il doppio, circa il 10% dei nostri consumi potrebbe raddoppiare, ma non riusciamo a sfruttarlo, e questa è una tragedia nazionale, una delle tante. E poi abbiamo i rigassificatori, uno piccolo a Panigaglia, uno piccolino ancora di più di fronte a Livorno, la grande Livorno nell'offshore, e poi il rigassificatore di Rovigo, l'unico al mondo fatto a largo, molto costoso, ma funziona. Ma funziona. Queste sono le nostre fonti di approvvigionamento, così abbiamo anche aiutato gli ascoltatori a capire un po' meglio. Ogni tanto lo facciamo e ci ritorniamo, perché è anche giusto farlo per non parlare a vuoto, insomma, naturalmente. Vorrei capire questo: quali possono essere le strategie per rompere, e se queste secondo lei sono credibili, per rompere la dipendenza alla Russia o quantomeno allentarla? Guardi, noi di strategie nell'energia ne facciamo da tantissimo tempo, in particolare dagli anni 70. Nei paesi europei sono di fatto in gran parte fallite, qualcheduna ne abbiamo fatta, però in questo momento godiamoci il lato positivo della cosa estremamente negativa, che è il calo dei consumi, della recessione dell'Italia, dove si consuma meno energia, pertanto questa è la ragione principale per cui il nostro primo ministro dice non è più strategico. Certo, noi abbiamo dei consumi di energia che sono tornati indietro al 1994, siamo indietro di 20 anni. Un po' questo è dovuto all'efficienza energetica, ma soprattutto al crollo della produzione industriale, perché in tutti i paesi moderni l'energia si consuma soprattutto nell'industria. Da questo il crollo della domanda di gas, e per questo non serve di più. La strategia è un po' quello che abbiamo sempre fatto, cercare di diversificare. Lo dico perché la strategia servirà comunque a quando ripartiranno, speriamo presto, i consumi. Strategia è quello che abbiamo sempre fatto. Una nota positiva meritano anche le fonti rinnovabili, che sono state estremamente costose. Ieri il GSE ha rilasciato i dati sulla produzione fotovoltaica dell'anno scorso, nuovi record costantemente, e questo ha permesso di ridurre anche l'estero, che è scesa dall'85% verso l'80%, rimane una delle più alte al mondo, questo è vero, però c'è un po' di calo. Poi cercare di diversificare le fonti, da noi la parola carbone ad esempio è quasi una bestemmia, si rischia la galera come molti procedimenti giudiziari lasciano intendere, ma in Germania ad esempio, che è il paese più verde d'Europa, la produzione elettrica avviene soprattutto ancora col carbone. Poi produzione nazionale ancora, questo di idrocarburi, che c'è ancora molto petrolio e gas. Saluto al fortunato ascoltatore Giovanni, che ci scrive o dalla Francia o da zone limitrofe alla Francia. O c'è stato adesso in vacanza e ha fatto un pieno con 1,10 € al litro per il gasolio. Dunque, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, qualche ascoltatore già ci scrive il calo dell'8% dell'euro, le accise non giustificano il fatto che i prezzi non scendano più in fretta rispetto a quanto bruscamente è calato il prezzo del petrolio. Ci spiega un po' di più e un po' meglio che cosa succede? Ma intanto vorrei tranquillizzare i consumatori, che terra a terra, ma sono la cosa più importante nel mondo dell'energia, perché poi l'energia serve soprattutto a loro, in particolare agli automobilisti. I prezzi dei carburanti in Italia, come nel resto d'Europa, sono crollati già rispetto all'estate scorsa, ai picchi dell'estate scorsa, quando c'era le tensioni geopolitiche in Iraq, il calo di 20 centesimi già adesso. Poi in certi punti ci sono delle zone dove i prezzi sono ancora alti, possono scendere ancora parecchio, ma io sono sicuro che molti ascoltatori sanno che il gasolio si fa intorno anche a 1,30, 1,33 e la benzina intorno a 1,40. Poi ci sono delle forchette molto molto ampie in questo periodo e bisogna stare attenti, andare a fare benzina dove ci sono le offerte, dove c'è il self-serve, iper-serve, dove ci sono le carte di credito. Questo, poi uno se va in certi punti vendita piccolini, servito, orari stretti, così, allora lì si può pagare di più. Ma questo è accaduto in tutta Europa. Il problema grave dell'Italia, che l'ascoltatore ha fatto bene a mettere in evidenza, è l'ipertassazione italiana, che è una cosa gravissima. Tra l'altro partirà probabilmente, adesso non è chiaro, dal 1 gennaio, cioè da dopodomani, un nuovo aumento delle accise, perciò quel meno 20 verrà mangiato da un più 2 di accise su cui viene calcolato il 22% dell'IVA. L'Italia ha la più alta tassazione al mondo sull'energia, in particolare sui carburanti. Allora, siccome la mobilità è un bene primario dei cittadini, è uno dei fattori produttivi delle imprese, noi siamo più poveri e danneggiamo con questa ipertassazione le nostre imprese e la nostra economia per muovere i beni. In sostanza, i nostri camion vanno all'estero, o i camion dei francesi o dei greci vanno all'estero, fanno il pieno in Francia, vengono da noi, inquinano, perché consumano da noi, perciò noi abbiamo il danno e la beffa. Le tasse vanno tutte in Francia, poi tornano fuori e rifanno il pieno, perché con un pieno di un camion si fanno anche, arrivano a fare anche 1000 chilometri, poi qualcosa comprano anche qua. Ma noi abbiamo un crollo delle vendite, paradossalmente calano le entrate per lo Stato. Senta Tabarelli, però me la spiega un po' meglio, mentre intanto arrivano sms di ascoltatori con una serie di rilevazioni spot che ci stanno facendo, tra cui Massimo che ha fatto il pieno a Pamplona a 0,96 al litro, un altro al Ticino 1,18 la Verde, 1,27 il diesel, là hanno una cosa di più il diesel perché hanno una politica diversa, in Svizzera ci parlano dello strozzinaggio ad Ischia, 1,77 la benzina, 1,66 il gasolio. Però al di là di questo, lei parla di un aumento dell'accisa al 1 gennaio, cosa vuol dire che non è chiaro? Perché questa, allora, se non erro, era una clausola di salvaguardia che risaliva alla fine del 2013, governo Letta, no? Sì, esatto. Per l'assenza di entrate c'è questo automatismo che era previsto da tempo, perciò piccoli aggiustamenti di poca entità, praticamente poco, intorno a un centesimo, che dovrebbe partire dopo domani. Non è ancora chiaro come, lo vedremo, ce ne accorgeremo dal 1 gennaio. Questo va a peggiorare, ecco, ulteriormente il nostro svantaggio rispetto al resto d'Europa, perché i prezzi sono crollati, ripeto, 20 centesimi in meno ci sono tutti, perché noi dobbiamo poi guardare in termini percentuali, il petrolio è crollato del 40%, ma se noi dobbiamo mettere su il 70% del prezzo finale sono tasse, la variazione poi del consumo arriva al 10%, la variazione del prezzo per i consumatori, perciò viene attenuata dalle tasse. Queste tasse le torniamo a aumentare. Il problema è che da noi la benzina costa un 30% in più, 30 centesimi in più rispetto al resto d'Europa, ai nostri paesi vicini. Certo. Perciò portare le arance dalla Spagna a Parigi costa molto meno che esportarle dalla Sicilia a Parigi. Certo. Questo è un banalissimo esempio. Molto semplicemente, naturalmente. Poi anche le persone, se consente, anch'io o lei o tutti gli altri 35 milioni di automobilisti italiani, se vogliono andare in vacanza, ci vanno di meno. Certo. Perché è più tassata rispetto agli austriaci. Senta, un'ultima domanda, sempre lato più puramente consumatori, se viste le decisioni ieri dell'autorità per l'energia e il gas, secondo lei possiamo attenderci ulteriori cali per quanto riguarda i prossimi trimestri? Naturalmente le decisioni dell'autorità che ha deciso per un calo, per un taglio del 3% per quanto riguarda l'elettricità e 0,3% se non erro per quanto riguarda il gas, riguardano il periodo gennaio-marzo. Se possiamo da marzo, secondo lei, attenderci, se i prezzi del petrolio rimarranno a questi livelli, un ulteriore calo? Sì, se rimarranno a questi livelli ci sarà un calo in particolare per il gas, che è stato, come diceva lei, marginale, per meno 0,3. Invece l'elettricità è già stato importante, ci sarà qualche altro aggiustamento al ribasso, ma soprattutto per il gas dovrebbe essere ancora un altro calo del 2-3%. Ovviamente notizie positive, estremamente positive, che si aggiungono quelle di carburanti, che dovrebbero finalmente dare una spinta ai consumi interni, creando di quei problemi di deflazione che, insomma, bisogna essere comunque consapevoli. Grazie Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, e buonasera. Grazie a voi, a presto. Ha ragione l'ascoltatore, anche ci scrive tra l'altro: quiz, in quale paese della galassia si pagano le tasse, ossia l'IVA sulle tasse, ossia le accise? Esattamente l'Italia. La giornata sui mercati che ci racconta di indici negativi, sicuramente meno 0,6 il FTSE MIB, meno 0,6 anche il FTSE All Share, e però decisamente meglio del resto d'Europa, dove Parigi ha lasciato sul terreno un 1,68%, Francoforte un 1,22%, Londra un 1,34%. Guido Maurino, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Quanto ha pesato su questa migliore performance italiana il fatto che l'asta di BTP sia andata particolarmente bene, con per la prima volta i rendimenti sotto il 2% direttamente in asta, direttamente al collocamento? Ha pesato abbastanza, perché proprio i titoli del settore bancario sono stati quelli che si sono mossi meglio oggi. Fra i titoli principali vediamo come il Banco Popolare abbia guadagnato l'1,05%, MPS lo 0,79%, la Popolare di Milano più 0,65%, e proprio perché le banche hanno un peso molto consistente sul listino milanese, questo ha contribuito ad attenuare le perdite di Milano rispetto a quello che abbiamo visto nel resto d'Europa. Bene, per quanto riguarda i singoli titoli, allora, delle banche, insomma, in parte abbiamo già detto, porterei invece proprio sui petroliferi, Eni e Saipem. Sì, allora, per quello che riguarda Eni e Saipem, oggi è stata di nuovo una giornata difficile per questi due titoli. Saipem ha ceduto il 2,23% ed Eni l'1,43%. Cosa ha pesato oggi? Sempre il prezzo del petrolio, di cui parlavate prima, che rimane comunque debole attorno ai $53 al barile, e sia il fatto che il progetto South Stream per portare il gas dalla Russia all'Europa è definitivamente tramontato. Ieri Gazprom ha annunciato che ricomprerà le quote dei suoi soci, fra cui appunto la stessa Eni, e Saipem, che aveva commesse importanti per oltre 2 miliardi di euro relative a questo progetto, quindi vedrà naufragare queste commesse, anche se poi avrà in qualche modo dei ritorni, avrà un modo per farsi risarcire, anche se in questo momento non è molto chiaro. Nel dubbio, insomma, i due titoli oggi hanno ceduto in modo importante. Sì, Saipem il 2,23%, Eni l'1,43%, i bancari, si diceva, Banco Popolare più 1,05%, Monte dei Paschi più 0,79%, la Popolare Milano più 0,65%, questo il quadro generale. La Popolare Emilia Romagna che guadagna lo 0,18%, Ubibank in realtà in calo dello 0,17%. C'è un motivo particolare per il quale World Duty Free guadagna 1,5%, 1,6%? Ma non ci sono motivi particolari, però sul mercato sono tornate le voci che vorrebbero i Benetton, che sono gli azionisti di riferimento di questa società, pronti a scendere anche sotto il 30%, attualmente hanno circa il 50% della società. È un discorso ciclico, gli stessi Benetton hanno già detto che per quello che riguarda World Duty Free, anche per quello che riguarda Autogrill, sono disposti a considerare delle partnership, delle operazioni di fusione e acquisizione che potrebbero anche portarli a veder diluire la propria quota. Ciclicamente queste voci ritornano, e il ritorno oggi, una giornata non particolarmente esaltante per volumi e per storie, ha contribuito un pochettino a dare una spinta a World Duty Free. Eh sì, perché comunque siamo alla fine dell'anno, insomma. Finmeccanica che poi alla fine ha chiuso in perfetto pareggio, in realtà si era mossa abbastanza bene, no? Sì, si era mosso abbastanza bene nel corso della giornata, perché si è aggiudicata una gara dell'ENAV, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, una gara da 206 milioni di euro, e in più è emersa la notizia da parte del Ministero della Difesa polacca che Finmeccanica è uno dei tre pretendenti per una maxi gara che riguarda 70 elicotteri del valore di circa 2,5 miliardi di euro, e una dei tre pretendenti. All'inizio del prossimo anno verrà definito il costruttore per questi elicotteri. Insomma, Finmeccanica è in buona posizione per aggiudicarselo. Vedete se domani la borsa è chiusa? Sì, domani la borsa è chiusa, tanto che poi da Piazza Affari hanno diffuso i dati dell'anno tradizionali, indicando che la borsa di Milano vale 470 miliardi, è il 29% del prodotto interno lordo, in leggera crescita rispetto ai 438 milioni di fine 2013. Gli indici complessivamente chiudono il 2014 poco mossi. ma gli scambi sono andati forte, gli scambi di azioni hanno raggiunto una media giornaliera di 2,9 miliardi, un più 33% rispetto al 2013. Titolo più scambiato, Unicredit, 112,3 miliardi. La borsa ha raccolto nel 2014 14 miliardi. Di questi, cioè le società che sono sul mercato hanno raccolto 14 miliardi, naturalmente 11 derivano da operazioni di aumento di capitale, gli altri 3 miliardi riguardano le quotazioni di 26 matricole. Siamo ancora con Guido Maurino di Radio Core, il Sole 24 Ore, per fare il punto invece di questa giornata di borsa. Eravamo sui titoli minori, Enertronica più 14,85, Friendly Energy più 12,20, High Real più 9,03, Microspore più 5,86, The Wind più 5,07, Damiani più 4,61 e del clima. Guido. Del clima oggi ha guadagnato il 3,66% in chiusura, ma nel corso della giornata i rialzi erano stati anche superiori. La società ieri ha annunciato che venderà una delle sue divisioni denominata Radietos per concentrarsi appunto sulla climatizzazione. È una notizia positiva, è stata accolta in modo positivo dai mercati, anche perché era una divisione che aveva poco a che fare con il business della società e che oltretutto perdeva dei soldi, per cui insomma ha avviato la procedura di vendita e conta di chiuderla nel corso del prossimo anno. In ultimo, Parmalat. Sì, Parmalat oggi ha guadagnato lo 0,34%, diciamo che la notizia oggi per la società è il fatto che abbia acquistato una piccola società friulana, Latterie Friulane, che era in crisi. Si tratta della prima operazione che Parmalat fa in Italia da quando è passata sotto la gestione francese, dopo l'acquisto appunto di Lactalis. Una piccola operazione con cui chiude l'anno dopo diverse operazioni che invece ha fatto in questi ultimi 3 anni e mezzo, soprattutto in Brasile, in Nord America e in Australia. Grazie, grazie a Guido Maurino, Radio Core, il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie. Eccoci di nuovo, qualche altro titolo che non vi abbiamo dato, di World Duty Free si è detto, più 1,6, Banco Popolare più 1,05, Pirelli più 0,99, Bene Campari più 0,68, Popolare di Milano più 0,65, Bene Azimut più 0,45, non vi abbiamo dato i grandi bancari che in realtà poi sul fine della seduta hanno ceduto qualcosa, meno 0,28, Unicredit, meno 0,66, Intesa San Paolo. Di Saipem e Deni si è detto, giù anche Fiat Chrysler, meno 1,29, Terna meno 1,26, Telecom Italia meno 1,23, nel Green Power meno 1,14, Atlantia meno 1,13, Exor meno 1,02, A2A meno 0,89. Abbiamo parlato di borsa, abbiamo fatto una sorta di bilancio dell'anno, anche quantomeno nei numeri che ha fornito oggi la stessa borsa italiana. Adesso vediamo di farlo a proposito dei nostri titoli di Stato. Anche in conseguenza dell'asta che c'è stata oggi, con il tasso, il rendimento del decennale al minimo storico all'1,89%, per la prima volta sotto il 2% al collocamento, scrivono le agenzie. Angelo Drusiani, responsabile gestioni Albertini Sitz, buonasera e benvenuto, anzi bentornato ai nostri microfoni. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, questo il dato di oggi che chiude direi degnamente l'anno, perché insomma tutto si può dire meno che le cose non siano andate bene, no? Dal punto di vista dell'andamento dei rendimenti c'è stato un calo sostanzioso. Pensate che il titolo decennale ad inizio 2014 deve esattamente il doppio, il 3,86%, siamo 1,93, quindi un poco sotto 1,91 circa. Ma l'aspetto interessante è l'andamento delle emissioni. Tenete conto che il Tesoro ha collocato circa 450 miliardi di titoli, quindi per pagare i rinnovi, per pagare le cedole, e tutte le sottoscrizioni sono andate in maniera eccezionale, in particolare BTP Italia, che come si sa hanno dovuto addirittura modificare il sistema d'asta perché altrimenti ne collocavano troppi, quindi dal punto di vista dei risultati il risultato è molto molto buono. Drudiani, come se lo spiega questo? Perché va bene Draghi, insomma, ecco, l'abbiamo detto mille volte, sicuramente i mercati, anche il mercato dei titoli di Stato, vivono in una costante attesa delle scelte della Banca Centrale Europea, che forse a gennaio deciderà per un quantitative easing e quindi forse anche per l'acquisto di titoli di Stato. Va bene Draghi, però non penso che possa spiegare tutto, sì. Intanto c'è l'effetto contagio, nel senso che il titolo tedesco paga lo 0,54% decennale e ha trascinato al ribasso tutti i rendimenti degli altri paesi di area euro. In più c'è da dire che grazie anche all'inizio delle riforme che sono state fatte in alcuni paesi, a noi ancora in maniera molto blanda, ma sappiamo benissimo che dal punto di vista politico non è così semplice, però sicuramente qualcosa è stato fatto e il differenziale che ad inizio anno il decennale era 202,5, oggi chiude a 134-135, quindi c'è stato un calo sostanzioso, ma forse non è ancora finito qui, potrebbe arrivare anche a 100 come sta arrivando la Spagna. E indubbiamente lei ha fatto riferimento al Presidente della BCE, non dimentichi due aspetti, il primo che è un uomo di mercato, che ha lavorato sui mercati per tantissimi anni e sa come i mercati vanno guidati e vanno tenuti sotto controllo. L'altro aspetto, secondo me, è un aspetto politico importantissimo perché è un uomo molto diplomatico che si sa muovere. Io spero che non diventi Presidente della Repubblica perché secondo me a noi serve molto di più dove adesso. Sì, lei dice serve là sì, dove sta Draghi. Secondo me sì. Mi sembra di aver intuito adesso, non per far perché come sapete noi facciamo mai elegie particolari, siamo qua, facciamo attenzione, quando il governo sbaglia lo diciamo, lo abbiamo fatto anche ieri sulle parole che ha detto il Presidente del Consiglio, però mi sembra di capire da quel che diceva lei che c'è stato anche una sorta di effetto Renzi, per così dire, un effetto governo. Secondo me c'è stato un effetto legato all'aspetto che è indubitabile, negli ultimi 20 anni, forse anche di più, in Italia non è mai stato fatto nulla ai livelli a cui sta tentando di fare questo governo, poi che si riesca, che non si riesca, questo è tutto da vedere, che piaccia o non piaccia, comunque è così, i movimenti ci sono stati, molti dicono che c'è la regia della Banca Centrale Europea dietro, dell'Unione Europea, tutto quello che si vuole, però quantomeno qualcosa si sta muovendo, i mercati è quello che vogliono, assolutamente. Cioè i mercati stanno scommettendo sul fatto che questo governo ce la faccia, in sostanza, dice lei. Secondo me scommettono su due aspetti, il primo è questo a cui lei fa riferimento, il secondo è quello che il Presidente della BCE sarà in grado di fare il quantitative easing a dispetto delle riluttanze, delle resistenze dei paesi virtuosi. C'è da dire che il rischio qual è? Il rischio che vedo io davanti anche per il quantitative easing è che a metà anno gli Stati Uniti probabilmente alzeranno i tassi di interesse. E c'è da chiedersi fino a quanto il decoupling, cioè l'andamento divergente dei tassi americani e dell'area euro, potrà continuare. Il problema è lì, perché se dovessero salire i rendimenti si sa che le quotazioni dei titoli di Stato, ma delle obbligazioni in generale, scendono in maniera anche imponente. E quindi da questo punto di vista magari potrebbe trovare delle ulteriori resistenze e il Presidente della BCE portare avanti la propria Ce lo spiega un po' meglio questo effetto dell'andamento divergente? Sì, l'effetto decoupling, come dicono gli americani, cioè effetto divergente, di solito c'è un effetto contagio fra i rendimenti della sponda americana dell'Atlantico e quella sponda europea, difficilmente vanno in maniera antitetica, nel senso che negli Stati Uniti salgono e da noi rimangono fermi o addirittura potrebbero scendere se ci fosse il quantitative easing. In realtà dopo qualche tempo c'è l'effetto, i due andamenti sono assolutamente simili, cioè se sale là sale anche qua magari più lentamente, se scende là scende anche qua, quindi l'effetto contagio comunque c'è in ogni caso, magari possono passare 6 mesi, però prima o poi arriva, perché è inevitabile che i mercati abbiano una tendenza molto simile. Allora, c'è un ascoltatore che in realtà, insinuando un sospetto, ossia dice magari qualcuno si sta preparando al colpo finale, in realtà fa una domanda interessante, che è questa: chi è che sta comprando i nostri titoli di Stato? Li comprano le banche italiane perché ovviamente perché negli ultimi anni hanno fatto, quest'anno in particolare, il bilancio con i titoli di Stato più che con l'attività caratteristica delle banche, perché di prestiti non è che se ne facciano tantissimi. Invece, quindi stanno continuando a comprare le banche? Sì, ma comprano anche tenga conto che un investitore internazionale che compra i titoli tedeschi investe a tasso zero, anzi negativo. Certo. Però giustamente una strategia che fa un investitore internazionale qual è? Una parte la metto in sicurezza, quindi compro i tedeschi, ma una parte la metto a reddito, quindi compro i titoli italiani. E certo, diciamo le banche italiane e anche gli investitori internazionali. Sì, assolutamente, c'è un ritorno molto forte agli investitori internazionali, molto forte. Anche americani? Anche americani, sì, anche americani, anche perché poi è probabile che se il dollaro s'appressa, oddio, bisogna stare molto attenti, perché investendo in euro devono coprire poi il rapporto di cambio, perché sennò poi ci rimetterebbero una volta che vanno a vendere in euro. Bene, bene, questo dunque il quadro per quanto riguarda i nostri titoli di Stato e l'andamento delle aste di quest'anno. Tra l'altro, Drusiani, se non ricordo male, era uscito qualche pezzo, qualche pezzo giornalistico naturalmente, che dava un'idea che il Tesoro avrebbe voluto accelerare i collocamenti, le aste nel primo semestre per poi stare un po' più sereni nel secondo semestre. Mi sembra che alla fine questo non sia avvenuto, no? C'è stato un rallentamento a dicembre, ma questo è tradizionale che avvenga, ma fatica, una volta che si vede che il cavallo beve, è difficile che si rallenti, si può ridurre un po' il collocamento, però in maniera molto contenuta, anche perché comunque il fabbisogno dello Stato italiano è molto molto forte, di conseguenza nel momento che si può collocare a questi, tenga conto che quest'anno il costo della raccolta del Tesoro italiano è sceso sotto l'1,5, quindi è un costo della raccolta incredibile, perché c'è una componente importantissima di bot che sono stati collocati anche a tassi vicini allo zero, quindi questo ha contribuito a far scendere in maniera imponente il costo della raccolta, ma anche i titoli lunghi, giustamente come diceva lei in apertura, il titolo decennale è stato collocato sotto il 2%, quindi il costo è sceso moltissimo e quindi valeva la pena continuare ad emettere in sostanza. Eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Una risposta all'SMS di un ascoltatore a proposito dell'interpretazione che ci dà poco fa Angelo Drusiani di Banca Albertini Sitz a proposito del calo dei rendimenti dei titoli di Stato. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordarvi che sul Sole 24 Ore di domani ci sarà proprio un bilancio anche per quanto riguarda i titoli di Stato, oltre che Piazza Affari, di un 2014 che, come abbiamo visto, si è chiuso col botto, con quest'asta nella quale per la prima volta al collocamento, nel senso sono già scesi sotto il 2% altre volte i rendimenti dei titoli di Stato italiani a 10 anni, però sul mercato secondario, mentre invece in questo caso al collocamento per la prima volta sono scesi sotto il 2% all'1,89% nell'asta di oggi. Insomma, scrive questo ascoltatore e dice più spesa corrente, meno investimenti, più debito, più tasse, i mercati avrebbero fiducia in questo governo, meno barzellette per favore. Allora, sarà pure una barzelletta, però i fatti sono fatti e qua non si sta dando una valutazione di merito sul governo, si sta vedendo quale effetto gli investitori ha avuto questo governo sugli investitori. Ha ispirato evidentemente un certo clima di fiducia, come testimoniava un operatore di mercato, quindi non è che lo stiamo dicendo noi, ce l'ha testimoniato un operatore di mercato, e quindi questi investitori hanno deciso in parte evidentemente di scommettere sull'Italia. In questo entrano in gioco tante altre cose, come lo stesso Drusiani diceva, tra cui il fatto che l'investitore tipo si compra il titolo tedesco per stare tranquillo e quello italiano per guadagnare un po' di più, evidentemente, e però i fatti sono questi, insomma, sono due punti percentuali di rendimento persi in un anno. Che ci sia, che abbia giocato naturalmente anche Mario Draghi e la Banca Centrale Europea, non c'è il minimo dubbio. E però evidentemente una componente di questo tipo c'è, che è una componente psicologica, non è necessariamente una componente fattuale. E qua siamo ai provvedimenti del governo. In particolare i provvedimenti fiscali. Anno 2015 in arrivo e molte novità. Le sta enumerando, esaminando e dissezionando il Sole 24 Ore in questi giorni in edicola. C'è in studio con noi Jean-Marie Delbo. Jean-Marie, buongiorno, buonasera e benvenuto. Buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Una dissezione complessa, direi. Una dissezione complessa come tutti gli anni, ma a maggior ragione quando la legge di stabilità è un articolo unico di 735 commi, senza ripartizioni, e quindi si rivela, oltre che di complesso contenuto, anche di difficile lettura. Ok, quindi ci stai dicendo che state facendo un lavoro molto complicato e faticoso. Bene, ve ne siamo naturalmente grati, in particolare perché venite a farlo anche qua, oltre che sul giornale, dove gli approfondimenti sono molto più profondi, appunto. Non scatta, e questo ormai lo sappiamo già, non scatta la local tax, che scatterà probabilmente nel 2016, anche là andremo a vedere che cosa succederà. C'era stato annunciato che sarebbe stata fatta quest'anno, poi evidentemente è saltata, non ci sono stati tempi, è stato tutto un po' complicato, probabilmente si sarà anche valutato che le tasse sulla casa e le tasse locali, Jean-Marie, sono cambiate fin troppe volte negli ultimi 3 anni per sottoporci ad un nuovo cambiamento nel 2015, no? Credo sia mancato lo spirito di affrontare di nuovo un cambiamento, come dicevi. Il prezzo però che si paga è un altro anno di convivenza tra l'IMU e la TASI, quindi un altro anno di doppi pagamenti, di ricerca di regole che non sono doppie perché sono quasi uguali ma in parte sono diverse. Quindi certamente il rinvio non è indolore, nel senso che c'era la speranza che l'avvento della local tax avrebbe fatto piazza pulita di tante complessità. Questo non avviene, c'è solo da immaginare che dovendo fare per il secondo anno i conti con l'IMU e la TASI sia più semplice la gestione rispetto a quanto è accaduto nel 2014. Cioè probabilmente anche i comuni sono un po' più preparati da questo punto di vista, si spera. Speriamo, perché altrimenti viviamo un altro anno come il 2014 e credo non sia nell'interesse di nessuno in realtà. Posto naturalmente che terremo i riflettori puntati l'anno prossimo e costantemente sulla local tax, perché precedenti esperienze di accorpamento di tasse, vedi l'IRAP, non sono andate particolarmente bene, no? Insomma. Diciamo che l'accorpamento è rischioso perché si dice lo facciamo a parità di gettito. Poi il problema è che la parità di gettito è una locuzione che si usa dal punto di vista aritmetico. Però all'interno della parità di gettito ci sono spostamenti di carico fiscale da un soggetto all'altro, quindi la scelta non è indolore per tutti. Come è avvenuto quest'anno del resto? Come è avvenuto quest'anno, anzi quest'anno poi la parità di gettito ce la siamo, come dire, dimenticata, nel senso che probabilmente il gettito sarà superiore. Detto questo, in materia di imposte sempre immobiliari. Ecco, detto questo c'è poi da fare una considerazione. Forse sarebbe venuto il momento di mettere un punto, speriamo sia il 2016, perché noi parliamo di nuove imposte immobiliari dal 2006 ed è troppo tempo. Sì, decisamente troppo tempo. Allora, archiviato questo punto, che quindi non sarà un cambiamento, e posto il fatto che anche nel 2014, così come terremo i riflettori puntati sul cambiamento che dovrebbe arrivare nel 2016, nel 2015 terremo i riflettori puntati sui mutasi per vedere anche quest'anno come si comporteranno i comuni, se saremo costretti a conoscere le nostre aliquote in ottobre come è successo a gran parte dei cittadini italiani quest'anno, oppure se potremo saperle un pochino prima. L'altra forse grande novità che riguarda tutti noi è questo 730 precompilato. Come funziona? Il 730 precompilato è una grande novità, una grande opportunità e una grande incognita. Una grande novità perché si parla per la prima volta di avviare, diciamo, una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che consenta di rendere più semplice la dichiarazione dei redditi. Una grande opportunità perché se questo passaggio funzionasse avremmo davvero una semplificazione. È una grande incognita perché nessuno ha idea del come si possano gestire in modo proficuo tutte le informazioni che dovrebbero essere gestite dall'agenzia per arrivare a gestire le dichiarazioni di ciascuno di noi. Secondo me poi il primo anno sarà particolarmente difficile, perché sarà l'anno in cui la gran parte delle informazioni dovrà essere verificata, validata, corretta. Probabilmente se resistiamo un anno poi i frutti si vedranno. Gaetano da Lucca, che con pieno spirito toscano ci scrive: se il 7.30 sarà come la ricetta elettronica per i farmaci, allora di sicuro è una bischerata, dice. No, speriamo di no, davvero. Allora Jean-Marie Delbo, la tua impressione da persona che quotidianamente ha a che fare con tutto questo e che ci lavora quotidianamente, è che veramente la politica dell'Agenzia delle Entrate tenda a cambiare, diventi un po' più, aperte virgolette, amica, insomma, no? Consulente del contribuente, come la vorrebbe il Presidente del Consiglio? Allora, io al fisco amico ci credo abbastanza poco. Cioè, il fisco è sempre nemico? No, non è sempre nemico, però è un interlocutore. E quindi forse è anche giusto che abbia quel ruolo. Il fatto che possa però fare un'attività che abbia più i caratteri della consulenza, questo potrebbe anche verificarsi. È un po' troppo presto, perché ora siamo alle disposizioni programmatiche, si direbbe, no? Al programma di governo. Si tratta di vedere poi come verrà calato nella realtà delle interpretazioni, e soprattutto la scommessa è molto difficile, perché alla fine l'Agenzia delle Entrate è grosso modo quella che deve in qualche modo garantire anche degli incassi. E garantire gli incassi, che sono tanto più preziosi quanto meno ce ne sono. Questo è un periodo difficile. Quindi è veramente una grande scommessa. Io auguro ovviamente a tutti che la scommessa funzioni. Però certamente non è facile. E si è voluto marcare una differenza. Una differenza che anche nella comunicazione, ricordate le campagne sul redditometro, no? Sì. Ecco, si è voluto marcare una differenza, mettere il tasto più sulla collaborazione. Forse il banco di prova ce l'avremo anche all'inizio di gennaio. Cambiano le regole sul cosiddetto ravvedimento, cioè la modalità attraverso la quale si può fare la pace con il fisco. E lì, se ci sarà una gestione elastica disponibile, forse sarà una buona opportunità questa. Tra l'altro, dalle dichiarazioni programmatiche delle quali parlavi tu, bisogna calare il tutto in una realtà territoriale molto ramificata, e probabilmente anche questo rappresenta un problema, no? Ti trovi magari l'ostacolo di un personale, anche di un personale dirigenziale, abituato alla gestione, ad una gestione di altro tipo. Diciamo che l'ostacolo c'è ed è rilevante, perché in effetti i funzionari sono stretti tra due necessità. Da un lato, quello di svolgere i propri compiti senza prestare il fianco a critiche. Dall'altro, quello di avere la discrezionalità per prendere decisioni in maniera autonoma. Però la discrezionalità è difficile, perché da una parte trovi sempre qualcuno poi che ti denuncia la Corte dei Conti perché magari hai fatto un'omissione rispetto a una richiesta, eccetera. E poi la discrezionalità, se non è grandemente sorretta da un potere centrale forte, ti espone alle influenze di interesse, e dico solo quelle per carità di patria. Sì, diciamo. Naturalmente, per non parlare, lo dico io brutalmente, per non parlare di rischi di corruzione, in sostanza. Non solo, ma rischi di intimidazione, che sono anche peggio della corruzione, sì. Perché la corruzione, bene o male, trova magari qualcuno disposto a cedere. L'intimidazione è pure peggio, sì. Perché può piegare delle volontà che altrimenti sarebbero in grado di fare il proprio dovere. Allora, un paio di sms di ascoltatori. La persona che stiamo interpellando è Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore, e non è una persona dell'Agenzia delle Entrate, come avete anche sentito da quello che ha detto. All'ascoltatore ci scrive Marco, ci scrive: il fisco amico mi ha inserito negli studi di settore sbagliati, ho dovuto chiedere un prestito per pagare le tasse. Ci dispiace, tra l'altro non è l'unico caso di persone che è costretta a chiedere un prestito per pagare le tasse e di errori di questo genere. Speriamo effettivamente che poi nel momento nel quale questo nuovo modello per ora del tutto teorico, verrà calato nella realtà quotidiana appunto della stessa Agenzia delle Entrate, casi di questo genere non si debbano verificare più. Un paio di ultime cose sempre sulle novità fiscali, Jean-Marie, che sono in arrivo quest'anno. In realtà la prima che ti chiedo è una conferma, i lavori di ristrutturazione ricevono sempre uno sconto fiscale. Sì, la situazione è stata prorogata, quindi resterà uguale all'anno precedente, di fatto. Ok, che è una detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione, proroga estesa anche all'acquisto di immobili nuovi e grandi elettrodomestici, tetto di spesa globale a 96.000 euro, all'interno del quale lo sconto per mobili e grandi elettrodomestici vale solo fino a 10.000 euro. Poi ci sarà ancora il bonus bebè, che scatta in un altro modo, spetta per i bimbi nati dal 1 gennaio 2015 fino al terzo anno d'età, 960 euro per le famiglie con un ISEE non superiore ai 25.000 euro e raddoppia sotto quota 7.000. E poi ancora naturalmente c'è la stabilizzazione del bonus di 80 euro, che è come dire, la grande scommessa di Renzi, che dal punto di vista dei consumi al momento non ha dato gli effetti che probabilmente l'esecutivo sperava. Certo, non ha dato gli effetti perché la situazione probabilmente è più grave di quello che si ritiene, oppure perché la sfiducia è maggiore rispetto a quello che si riteneva, perché chiaramente questi 80 euro in molti casi non sono andati per i consumi aggiuntivi, ma per pagare le tasse magari. Una partita di giro. Oppure per metterli da parte. Come segnalava il nostro ascoltatore, se uno deve chiedere un prestito per pagare le tasse, magari utilizza gli 80 euro per non chiedere un prestito. Un'ultima cosa, una questione della quale ci capita e ci dispiace, perché a volte ci sfugge un po' di mano, forse perché siamo noi stessi lavoratori dipendenti, mea culpa, ci sfugge un po' la questione degli autonomi, almeno in questa sede, insomma, Radio 24. Il calo dell'IRAP per quanto riguarda i lavoratori autonomi potrebbe arrivare un 10%, se non sbaglio. Il calo dell'IRAP allora è previsto per i lavoratori autonomi senza dipendenti. Allora, lì si tratta del primo o di uno dei tanti tentativi fatti negli ultimi tempi per risolvere il problema degli autonomi senza dipendenti, che è una questione storica che si trascina quasi dalla nascita dell'IRAP. Chiaramente lì c'è un contenzioso molto ampio, ci sono vittorie e sconfitte, soprattutto vittorie, devo dire, dei contribuenti. Si tratterebbe probabilmente di trovare una soluzione legislativa che però costa. E di fronte al problema dei costi sappiamo che spesso si debbono rinviare scelte che sarebbero opportune. Grazie a Jean-Marie Delbo del Sole 24 Ore, grazie a tutti i colleghi del Sole 24 Ore che stanno continuando appunto a fare un grande lavoro su queste novità, come avete capito, piuttosto complesse. In chiusura andiamo ad occuparci e ritorniamo in Grecia. Ve lo abbiamo detto, il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica che è saltato. Il 25 gennaio ci saranno le elezioni. Inizia ufficialmente, nella sostanza o quasi, la campagna elettorale. Vittorio Darold del Sole 24 Ore, inviato ad Atene, torna da noi. Vittorio, eccoci di nuovo, buonasera. Buonasera a voi. Il Premier Antonis Samaras dice che c'è in gioco la permanenza della Grecia in Europa. Sono già schermaglie da campagna elettorale per, come dire, per marcare il territorio contro Syriza e contro la sinistra di Tsipras o no? Sì, esattamente. Sarà una campagna molto breve perché si vota il 25 gennaio, quindi come puoi immaginare le macchine dei partiti stanno partendo immediatamente perché hanno poco tempo e la campagna verterà su questo tema. Il Premier Samaras accuserà la sinistra radicale di Tsipras di portare il paese di nuovo allo sbando, fuori dall'Europa, di rischiare tutti i sacrifici fin qui fatti, quindi i risultati di questo primi surplus di bilancio, di leggere aumenti del PIL previsti quest'anno, insomma di mettere tutto in discussione, e che quindi il paese verrebbe portato fuori dalla rotta dell'Europa. E Tsipras ha parlato in un cinema ieri sera ad Atene, che era stracolmo, esattamente ribaltando il problema e dicendo che vuole cambiare la politica di austerità in Grecia, in Europa, perché quella politica di austerità ha portato solo al fallimento e all'economia che non corre. Come quindi vedi, quindi la volontà sembra, quindi Vittorio, la volontà di Tsipras e di Syriza sembra essere, a differenza dei timori che si immaginavano in parte anche gli investitori all'inizio, sembra essere quella appunto di cambiare la politica europea, non di far uscire la Grecia dall'euro o dall'Europa. Assolutamente. Tsipras ieri sera era in camicia bianca come Matteo Renzi, ha dato un'immagine di un leader giovane che non vuole portare fuori con dell'avventurismo il paese dall'euro, ha ribadito questo concetto, non vuole uscire quindi dall'unione monetaria né tantomeno dall'Europa, ma ha chiesto di modificare quelle diciamo quei diktat che la Troica chiede costantemente, cioè di continuare in quella politica di austerità che in Grecia sta pesando in maniera molto molto forte. E quindi sta facendo questa politica di non spaventare i mercati, chiedendo per ora diciamo prospettive non particolarmente eclatanti. Tieni conto che ha fatto una proposta di riduzione del debito, una riduzione, quindi un taglio del debito. Su questo naturalmente i mercati sono molto preoccupati, ma in generale i mercati non si stanno muovendo come si pensava, cioè pensano che Syriza non avrà la maggioranza, dovrà quindi aprire a dei partiti diciamo così centristi, e quindi è molto meno radicale poi di quanto si creda. Grazie a Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Noi ci fermiamo qua, i ringraziamenti, Barbara Bianchi in redazione, Filippo Aureggi in regia, un grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Noi ci risentiamo domani alle 13:15 con la versione natalizia di Effetto Giorno.